ritardo, atterra quando atterra. Io ti chiamo appena posso, tanto so come finisce. Non rispondi e non rispondi, non rispondi. Allora prendo un taxi e vado non so neanche dove. Lei vada che ci penso, ed eccoci che chiami. E non rispondo, non rispondo, non rispondo. È un po' come all'asilo, ma a un certo punto ci hanno detto, fuori dall'asilo dobbiamo fare luce su cosa siamo noi. Magari siamo ancora in prova. Come piove, finisco in un albergo, non disfo neanche la valigia. Arriva un tuo messaggio, mi accusi di qualcosa e non rispondo, non rispondo, non rispondo. Da quando mi ricordo, ci promettiamo passi avanti e la fiducia serve. Dovresti farci conti e non rispondi, non rispondi, non rispondi. È peggio dell'asilo, ma forse non c'è niente che sia meglio dell'asilo. Dobbiamo fare luce. Siamo ancora in prova. Dovremmo fare luce. Soltanto è caso mai. E intanto guarda quanto piove. È troppo faticoso e ciò che penso te lo scrivo. E poi mi trovo ancora a suonarti sotto casa e tu mi chiedi solo che cosa è faticoso e non rispondo.